Letture di Radio 24. L'Italia è uno dei paesi europei dove si legge di meno. Perché dunque si continuano a pubblicare così tanti nuovi titoli? Una delle ragioni è che dare alle stampe un libro costa meno che fare un'indagine di mercato per capire se si venderà oppure no. Come diceva l'immortale catalano, meglio una donna bella, intelligente e ricca di una brutta, stupida e povera. Ovvero, trasferendosi nell'editoria, meglio pochi libri belli e di gran successo di molti brutti e invendibili. Nonché in Italia, circa 60.000 all'anno se ne pubblichino più che altrove, nei quattro paesi con cui ha senso confrontarsi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, vige la regola del millesimo, secondo la quale ogni anno i nuovi titoli sono nell'ordine di grandezza di circa un millesimo della popolazione. Così nel 2007 si sono prodotti in Germania 56.000 titoli, quasi 85.000 in Gran Bretagna, oltre 55.000 in Francia e oltre 35.000 in Spagna. Troppi? Forse. Ma scendere troppo sotto il millesimo, come è avvenuto in tempi non lontani nell'Europa orientale, è pericoloso. Il terreno si inaridisce, le radici si disseccano, la cultura, che è fatta di tante cose, anche inutili ma tante, perde vita. Peraltro, quel che la nuda statistica ci dice è che il numero dei titoli prodotti è negli anni sostanzialmente stabile, sia in Italia sia fuori. Dunque, non è lì la causa dei nostri più recenti mali, a livello di sistema perlomeno, perché certo a livello di singolo editore la riduzione dei titoli è sempre lodevole, a patto che non ci si illuda di pubblicare solo quelli buoni. Se non troppe, di sicuro però, le novità sono tante. Ma perché così tante? Una ragione sta nella natura del business. Su circa 500.000 di titoli in commercio in Italia, i primi 5.000, cioè un centesimo, valgono da soli metà delle copie vendute e metà del fatturato a valore. Per un editore installarsi in questa felice riserva è una questione vitale. Non si tratta di pescare il pesce grosso, si tratta di sopravvivere. Ma siccome il business è di per sé largamente imprevedibile, l'unica via per massimizzare le possibilità di successo e minimizzare, nel senso di distribuire il rischio, appare, quella di reiterare i tentativi. È la strategia denominata provando e riprovando, il cui continuato abuso finisce per portare a quella notte in cui tutte le vacche sono nere e tutte le copertine fosforescenti entro la quale, a detta di molti, ci troviamo. C'è poi una seconda ragione, legata al fatto che produrre un libro costa poco, qualche migliaio o poche decine di migliaia di euro. Comunque, meno di un'indagine di mercato sul suo possibile esito. In pratica, costa meno pubblicarlo che testarlo. E quindi la pubblicazione è insieme indagine di mercato. La produzione ingloba la ricerca e sviluppo. Molti libri, le novità di esordienti, sembrano libri, ma sono ipotesi di libri, tentativi di libri. Dopo, quando si è vista la reazione del pubblico, quando si conoscono le dimensioni dell'autore, quando si passa, se si passa, all'edizione in paperback, tutto è più facile, più razionale. Arriva persino ad avere parvenze industriali. Ma certo, tutto il bello è prima. Il precario e un po' sgangherato fascino del maledetto mestiere è tutto nell'attesa dei primi dati, della conferma di quell'intuizione, ma era poi davvero un'intuizione, nei radi trionfi e nelle frequenti disillusioni. Insomma, è difficile attribuire a una supposta sovrapproduzione i guai presenti, che dipendono in prevalenza da un sistema distributivo nel mezzo di numerosi guadi, con la libreria tradizionale che fatica a trovare una fisionomia adeguata ai tempi, con la grande distribuzione indecisa, se trattare i libri come un prodotto civetta o come un serio comparto di attività, con le vendite online che guadagnano ogni giorno terreno e con, all'orizzonte, il minaccioso rullar di tamburi d'oltre Atlantico, dove le novità più commerciali, i cosiddetti bestseller, vendono più nel formato ebook che in quello cartaceo. Tutto ciò è stato per diversi anni velato da una prodigiosa fioritura di mega seller che ha imparzialmente beneficato grandi e piccoli editori, librerie e catene, grande distribuzione e e-commerce. Si pensi al Riccio di E.O., al Larson di Marsilio, al Twilight di Fazzi, ma ora che per imperscrutabile volere del fato di megaseller non ce n'è, il livello dell'acqua si abbassa ed emergono dolorosi tutti i sassi del fondo. Per non dire che con questi chiari di luna, un bel numero di assidui e laboriosi lettori i 30 euro mensili da dedicare all'acquisto di libri non ce li hanno più. Sarà anche vero che il libro è anticiclico e si avvantaggia delle crisi, ma fino a un certo punto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gian Arturo Ferrari? Ecco perché gli editori pubblicano così tanto, dalla Repubblica del 22 luglio. Letture di Radio 24. Insegnare il terrorismo ai bambini tramite il cinema d'animazione è l'ultima trovata degli integralisti islamici. Dei pochi frame apparsi sul sito Al-Shamuk, una sorta di Eva Kant islamica in abito nero come il passamontagna spara correndo in una notte urbana degna di Sin City. È l'ultima trovata degli Eredi di Osama, un film d'animazione destinato ai bambini per propagandare la rete terroristica dello sceicco saudita ucciso in Pakistan all'inizio di maggio. Quando è stato scoperto dagli esperti del think tank anglo-pakistano Kiyan, il pensatoio della lotta al fanatismo religioso, il video era allo stato embrionale, un campione di immagini già però inquadrato nel titolo Al-Qaeda nella penisola arabica. L'uso dei cartoon per inculcare la violenza nelle giovani menti non è nuovo. Nel 2007 i fratelli coltelli palestinesi di Hamas e Fatah si combatterono anche affidando le malefatte dell'avversario ai personaggi TV di Mickey Mouse e del Re Leone. Ma l'internazionale del terrore, apparentemente sulla difensiva, affila da tempo e a fondo l'arma comunicativa. Si tratta di una storia eccitante che punta il dito contro i traditori dell'Islam e vuole ispirare i giovani e i bambini anche attraverso scene di scontri armati, assassini e azioni eroiche compiute dai mujahideen. Spiega sul sito il sedicente autore tal Abu al-Ait al-Yemen, aggiungendo che il cartoon è una risposta al veleno instillato nei nostri ragazzi da altre TV. In realtà, secondo alcuni esperti di antiterrorismo americani, il film è ben lungi dall'essere realizzato. Ma Noman Ben Otman di Kiyam insiste sulla necessità di stare allerta. È la prova dei progressi di Al-Qaeda nel reclutamento mediatico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesca Paci con un cartoon Al-Qaeda insegna il jihad ai bambini, dalla Stampa del 22 luglio. Nonostante i kilt scozzesi, nonostante le tuniche che i nostri antenati portavano senza problemi, ogni tentativo di rilanciare la moda delle gonne maschili viene visto come un attacco alla mascolinità. Tutto ormai è stato detto e fatto, eppure ci sono ancora argomenti, sartoriali e non solo, che provocano arcigni alzati di sopracciglia e dibattiti infervorati. Uomini e gonne, ad esempio, sono una coppia assai discussa, peggio dei duchi di Windsor. Si pensi a quanta attenzione genera Marc Jacobs con il suo kilt. Nel nostro occidente civilizzato, con punto di domanda sulla civilizzazione per inciso, ipertecnologizzato, ultra evoluto, sembra esserci ancora qualcosa di intensamente disturbante nella vista di un uomo con la gonna. Mentre alle donne è concesso di indossare i pantaloni, il contrario non accade con facilità. Un uomo con la gonna crea disagio, perché è percepito come un travestito. Sbriciola la convinzione che la virilità sia un fatto di giacca e cravatta, rivelando una scomoda verità. Le apparenze ingannano. Punto. L'argomento comunque non si può evitare. Non si tratta di eccentricità, devianza estetica e nemmeno di roba da modaioli incalliti. Persino un'istituzione veneranda come il Victoria and Albert Museum di Londra ha dedicato non molto tempo fa un'intera mostra al tema, con il titolo «Men in Skirts». Altrove, dalle discoteche alla pop music, fiorisce l'iconografia degli uomini in gonna. Invero, una rivoluzione, ma niente affatto superficiale. Nulla succede in un secondo o senza motivo, e la moda non fa eccezione. E infatti la progressione va avanti da decenni, parallela alla ridefinizione del concetto stesso di virilità. Da ultimo, gli uomini sembrano essere giunti alla consapevolezza che accettare il proprio lato femminile o le proprie fragilità è parte integrante dell'essere maschio. La storia aiuta. In Occidente, in Oriente va diversamente, gli uomini non sempre hanno indossato i pantaloni. Prima del XIV secolo, quando le distinzioni tra i sessi cominciarono a essere associate strettamente alla forma degli abiti, uomini e donne indossavano tuniche. Con l'accorciarsi delle tuniche, gli uomini alla moda presero a indossare le calze per coprire le gambe. Queste diventarono brache nel XVI secolo, quindi pantaloni ai primi del XIX. Fine della storia. La controrivoluzione borghese del XIX secolo ha creato l'abito uniforme, privando i maschi, all'improvviso, della possibilità d'essere fiammeggianti e con questa di gonne e tuniche, rimaste pertinenza dei costumi folche e di quelli religiosi, il picco dell'antimoda. Balzo in avanti. Durante la Peacock Revolution degli anni 60, sarti provocatori come Michael Fish cominciano a spingere i limiti e le gonne tornano in auge. Nel 1966, alla riunione annuale della British Menswear Association, l'industriale tessile Joe Kagan si spinse fino al punto di dichiarare: «Negli anni 80 gli uomini indosseranno le gonne, o i kilt, come quelli che portavano i soldati romani». Preveggente come solo i visionari veri sanno essere, Kagan ci vide giusto. Negli anni 80 del power dressing e dell'ipercorpo, le gonne da uomo fecero scalpore, per mano dello stylist Ray Petri e dello stilista Jean-Paul Gaultier e delle loro visioni sospese tra Tom of Finland, Suburbia e Cabaret. Gli anni 90 parlano una lingua diversa, più ruvida, ma le gonne non mancano. Chi non ricorda Flea dei Red Hot Chili Peppers, preso a suonare il basso nudo con una vestaglietta, o Kurt Cobain sulla copertina di The Face, occhi fumigati, abitino a fiori da casalinga mezzo sfatto. Una gonna dopo l'altra si arriva all'attuale esplosione. I paladini della gonnella oggi vanno da Ray Cavacubo a Riccardo Tisci, da Rick Owens a Tom Brown, a Sikkim, senza contare gli innovatori e i sobillatori nascosti nelle pieghe e nicchie del sistema. Certo, obietterà qualcuno. La moda da sempre corteggia la controversia per fare soldi. A questo giro però è diverso. Le gonne da uomo non sono un trend superficiale, ma l'ennesima conferma, se necessario, che gli uomini non sono più quelli di una volta. Per usare l'aggettivo caro a Zygmunt Bauman, la mascolinità oggi è liquida. Non la si può contenere in una formula. Bauman parla di una nozione di tempo non più lineare, ma puntillistico. Lo stile, in parallelo, si è fatto pixelato. Tutto è possibile allo stesso momento. Anche le barriere di genere, una volta percepite come definitive, continuano a essere ridisegnate. Gli uomini così hanno perso le vecchie rigidità. Non solo possono essere persone diverse in momenti diversi della giornata, ma possono addirittura indossare gonne e pantaloni con la stessa facilità, senza tema ad essere etichettati come femminelli o peggio. Anche perché l'attuale infornata di gonne è tutt'altro che frivola. Le gonne del 2011, anzi, devono di più al kilt, l'unica forma accettata di gonna maschile, per inciso, che alla gonna vera e propria. Hanno un aspetto assertivo, militare, senza traccia di travestitismo. Dice Edward Buchanan, designer progressista di base a Milano, autore delle collezioni unisex Sansovino 6, «La gente ormai si può comportare e vestire come vuole», senza limiti legati al sesso. L'abito non fa il monaco e le limitazioni non sono moderne. Mi piacerebbe, ad esempio, vedere Barack Obama in una gonna di lino. Una figata. Vengono in mente i pretini nero vestiti nella neve di Giacomelli, gioiosi, severi e spirituali, indefiniti e liberi, con la gonna. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Angelo Flaccavento «I veri uomini portano la gonna» dal numero 3 luglio-agosto 2011 della rivista Studio. Ricevere un SMS che ci avvisa se nostro figlio è rientrato da scuola? Entrare nella sala di un museo e trovare subito sul cellulare le informazioni sulle opere esposte? Oggi è possibile, grazie alle femtocelle. Reti mobili domestiche per telefonare, navigare e mandare SMS. Sono le femtocelle, una tecnologia creata da gruppi di lavoro internazionali che vari operatori nel mondo oggi mettono sul mercato sotto forma di scatolotti. In Italia le ha già lanciate Vodafone e TIM si prepara a farlo con servizi inediti. Il funzionamento base di queste minuscole celle è sempre lo stesso. Femto è un termine preso in prestito dal sistema metrico e indica appunto una grandezza molto piccola. Di fatto, grazie a una carta SIM, sono ripetitori dal segnale cellulare che viene dall'esterno. Per farle funzionare bisogna collegarle a una presa elettrica e alla propria linea ADSL. E questo è il punto debole. Si deve avere l'ADSL. Il vantaggio invece è che si estende la copertura di rete mobile anche a zone della casa dove prima il segnale mancava o era insufficiente. TIM aggiungerà poi servizi basati sul fatto che la femtocella copre uno spazio ristretto, di solito una stanza, e quindi localizza l'utente. Così, per esempio, i genitori potranno ricevere l'SMS «Tuo figlio è rientrato da scuola», quando il cellulare del ragazzo, non appena entrato in casa, si collegherà in automatico alla rete domestica. E TIM sta pensando di promuovere anche servizi ad hoc per negozi e musei. I primi potrebbero mandare pubblicità o coupon via SMS ai passanti che si collegano alle loro femtocelle e i secondi inviare informazioni sulle opere in una certa stanza ai visitatori che vi si trovano in quel momento. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandro Longo «La rete che avvisa quando un figlio rientra a casa», dal venerdì di Repubblica, del 22 luglio.